L'Osservatore Romano critica duramente la vignetta pubblicata in prima pagina dalla settimanale satirico francese Charlie Hebdo nel numero speciale che sarà in edicola oggi, a un anno di distanza dalla strage all'interno della redazione. Si vede un dio chiaramente riconducibile all'iconografia cristiana, in fuga con mitra in spalla e sporco di sangue, accompagnato dal titolo «L'assassino è ancora in libertà», il commento del filosofo Giacomo Marramau. Come laico, in linea di principio, è anche giusto che io faccia dell'ironia sulla religione, però devo sapere scegliere il luogo e il momento giusto. Il contesto storico attuale, in un certo senso, è troppo delicato. Quando le religioni diventano un medium di identità, soprattutto avviene questo nel mondo islamico, ma non soltanto nel mondo islamico, insomma, lì bisogna andarci molto cauti. Ci ho detto, è innegabile che un elemento di violenza ci sia in tutte e tre le religioni monoteistiche. Le religioni di salvezza, fondandosi necessariamente su una divisione tra bene e male, devono poi identificare in un soggetto da punire il peccato. Non dimentichiamo che le guerre di religione hanno insanguinato l'Europa facendo molti più morti in percentuale, a cavallo tra 500 e 600 delle guerre mondiali. Fabrizio Noli, GR3.